Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it. È tornato Morata, adesso aspettiamo il ritorno di Zaza. Bravo Juventus! Dobbiamo convocare la banda. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Diventerà un nuovo Milan il Monza? No, vogliamo soltanto che sia composto tutto da giovani, tutto da italiani, da ragazzi ben pettinati, da ragazzi senza la barba, da ragazzi che non abbiano i tatuaggi, che non mettano gli orecchini, che se fanno un fallo brutto chiedono scusa all'avversario e lo aiutano a rialzarsi, che si rivolgono con educazione all'arbitro. Vogliamo fare una squadra tutta di italiani, possibilmente di giovani laureati che invitiamo a studiare. Chi fa calcio può anche studiare, prendersi una laurea, imparare almeno tre lingue, inglese, spagnolo, francese e poi tre lingue tra russo, arabo e cinese. Kevin Prince Boateng, acquisto arrivato nella notte, alla fine Adriano Galliani e Silvio Berlusconi tornano ad avere Kevin Prince, che ricordiamo tutti nel balletto dell'ultimo scudetto del Milan, firmerà il contratto di un anno con rinnovo in caso di conquista della Serie A, ed è un acquisto che insomma per il nostro campionato di Serie B non ha sicuramente bisogno di ulteriori parole. Buongiorno a tutti, dunque pettinato, senza tatuaggio, senza orecchini, Kevin Prince Boateng, no, a questo del Monza, ma naturalmente scherziamo. Pierluigi Pardi, in attesa del tuo radio tweet. Il mio radio tweet è sulla Supercoppa Europea, che di fatto, che non è soltanto insomma la Supercoppa Europea, ma è storicamente il momento in cui tutta la comunità del mondo del calcio internazionale si raduna, vale in fondo nel nostro piccolissimo, anche per noi giornalisti c'è un clima di festa quando c'è la Supercoppa Europea, quando la si può seguire soprattutto dal vivo. Stasera la racconteremo, è un anno diverso, quindi le precauzioni Covid ovviamente imporranno una limitatissima presenza di persone, però insomma è proprio un banale in bocca al lupo al mondo del calcio, perché se questa stagione andrà avanti normalmente vorrà dire che anche tutto il resto della vita sarà andata avanti in maniera più o meno dignitosa. E perché poi penso che l'abbiamo fatto mille volte questo discorso: il calcio non sia di per sé né buono né cattivo, ma è un pezzo della società, è una parte dell'economia, è una parte dell'identità delle persone, e quindi può sicuramente e della nostra vita, se mi permette, della nostra vita, quindi non solo mia e tua, siccome questo è un anno completamente diverso. Un anno fa Istanbul non ci aspettavamo minimamente, non potevamo minimamente immaginare nel commento di quel Liverpool Chelsea, tra l'altro bellissimo, che sarebbe successo quello che è successo, invece insomma. Invece siamo qui, tra l'altro, vediamo stasera come arriviamo al 2021. Siamo qui stasera, tra l'altro, presenza limitata ma non banale, 20.000 persone, sembrerà quasi una partita vera. Franco Ordine, buongiorno. Eccoci qua, buongiorno a voi tutti. Tu che tieni l'agenda di Biasina, impegni fino alle 2:30? No, non credo, perché il lattuccio al gattino è stato dato, per cui non credo che... Allora lo chiamiamo, ciao Fabri. Allora vedi che Franco tu non sai niente, non si dà il latte al gatto perché il gatto lo respinge il latte, non, è una leggenda metropolitana quella del latte al gatto. Ma cos'è questa novità del latte? Cos'è questa novità del gatto, scusa? Perché c'ho la piccola Frida che sta crescendo, ho appena preso il gattino e quindi sono diventato papà. Ma detto col massimo Frida. Rispetto per la piccola Frida, le mie cose sono sempre al sicuro lì in soffitta. È tutto tranquillo, guarda, ha provato a graffiare, perché dovete sapere che Pier Luigi ha parcheggiato nella soffitta di casa mia mezza casa sua, per cui sì. anni fa, e non so neanche cosa ci sia, probabilmente anche delle cose di un certo valore. Se fossi in voi, però, io non darei tanta pubblicità a questa roba, perché per andare a acchiappare magari metà di quella roba che ha lasciato in cantina Pardo a casa di Piasina, arrivano pure i ladri, lasciamo perdere. No, no, io vengo a trovarti di sicuro, Fabio. Delusi perché troveranno delle cose veramente che non so neanche cosa sono, quindi figure. Eh beh, ma sono cimeli, comunque... sono cimeli da collezionista. No, cimeli, questo era con me, oh. Questo era lo specchio, lo specchio di Pierluigi c'avrà, Pardo. Ci avrà sicuramente le scarpe usate di Cassano, i pantaloni di Vieri. Questa roba no. Senti, Ciccio, ma... l'esame di italiano ha fatto Perugia. Eccoli, sei già arrivato. La vostra, allora partiamo subito. Prima che da Pris Boateng, dalla vostra posizione, ragazzi, a cominciare da Biasin che l'ha evocato su questa vicenda, su questa storiaccia di Suarez. Guarda, è molto difficile dire qualunque cosa perché come dici una cosa sbagli, no? E ti attaccano da una parte e dall'altra, però è chiaro che c'è qualcosa che non funziona. Abbiamo capito, se è successa questa cosa è perché qualcuno l'ha fatta accadere, dobbiamo solo capire chi è stato a far partire tutto il meccanismo. Certo, oggi sono spuntati dei nomi, si dice spuntano i nomi, poi in realtà sono soggetti dell'università che tirano in ballo paratici. Bisogna semplicemente capire se qualcuno parla e dice quel signore lì mi ha detto che dovevo fare così, e poi sappiamo perfettamente, ragazzi, che la giustizia sportiva in Italia è fatta in una certa maniera, molto accelerata, molto pericolosa anche in certi casi. Sì, si tratta di capire se qualcuno abbia violato la legge, la legge dello Stato, la legge dello sport. Se poi si scopre che è sudditanza psicologica, quella dove l'ho già sentita questa sudditanza psicologica, questa non è perseguibile in campo e neanche nelle aule di tribunale, Franco. E non è un dettaglio, no. Capire io se penso è questa corruzione o sudditanza. Io penso questo, che da questa vicenda comunque esce molto piena di graffi, di fratture, l'immagine dell'Università di Perugia, che tra l'altro è una università storica alla quale tra l'altro anche la mia famiglia è legata in qualche modo, perché mia moglie si è laureata lì in lettere tantissimi anni fa. Allora, il punto vero è questo: fino a questo momento, con quello che abbiamo a disposizione, io che non sono uno di quelli portati al sospetto, c'è una cosa che un po' mi fa ribellare ed è la seguente: sui giornali di questa mattina viene fuori, spunta il nome di Paratici. Ora io facendo una piccola rivista della rassegna stampa, io immaginavo di trovare nelle intercettazioni un Paratici due punti virgolette invece no, sono sempre quelli dell'università che parlano di Paratici. Se intercettassero nelle nostre trasmissioni in cui attribuiamo a Conte Antonio alcuni pensieri, a Pioli piuttosto che ad altri, a Ibra piuttosto che ad altri, ma è obiettivamente un'operazione non molto corretta, ecco. Questo voglio, tengo a dirlo. Dal punto di vista squisitamente calcistico, tenuto conto dei precedenti, qui secondo me non si va oltre la menta. È evidente che è, una fotografia del paese, perché se un'università piena di storia e di gloria come quella di Perugia deve puntare sull'arrivo di Suarez per rinverdire il suo marchio e il suo brand, devo dire francamente è un paese che mette molta malinconia. No, ma esatto, questa è l'unica cosa secondo me che si può dire in questo momento, perché su tutto il resto bisognerà appunto capire se è corruzione o sudditanza, e le due cose sono completamente diverse, perché in una un reato che è brutto, che è odioso, e nell'altra c'è il nulla invece di fatto, cioè il fatto che di fronte allo stipendio di un calciatore importante, a un nome famoso, uno si emoziona. A un selfie, a una posizione sociale. Finché c'è il ristoratore che regala una bottiglia di vino al suo cantante preferito perché è emozionato e gli chiede il selfie, va bene. Quando c'è un'istituzione che ha un compito importante, oltretutto quello di assegnare la cittadinanza italiana, quindi voglio dire, una roba attraverso questo esame, una roba di cui credo che si debba essere orgogliosi, no? La cosa più bella che possa succedere, io sono italiano, per me che ci può essere, ma di più bello della cittadinanza del mio paese? Scusatemi se vi interrompo, allora, ma secondo voi diventa... ma secondo voi un'università fa più bella figura se regala tra virgolette un attestato in 20 minuti o se fa un esame e dice: signori, noi anche di fronte a Suarez non chiudiamo occhi, non sa l'italiano, lo spediamo a casa. Se il discorso è quello della pubblicità, se il discorso è quello della pubblicità, la pubblicità migliore un'università se la fa e fa le cose per bene. Fabrizio, il problema maggiore è la figuraccia che come dire, viene moltiplicata per mille, e che poi alla fine si sono fatte anche le foto. Questa è la cosa che ovviamente ti dà l'idea di che cosa ci fosse dietro, cioè l'idea di pubblicizzare l'università per stranieri di Perugia come, come se fosse una ma non moda. Sai, pubblicità come la palestra che regala l'abbonamento a quindi siccome è un VIP poi va a allenarsi lì e la gente ma non è pubblicità, non credo sia pubblicità per l'università per stranieri di Perugia, credo che sia una contro pubblicità e sia magari anche una luce. Però è una concessione all'ego dei professori che volevano la foto, cioè non, insomma ci sono vari modi di leggere questa cosa. E poi scusa, c'è un'ultima cosa, se vuoi tra virgolette più politica, che la cittadinanza è una cosa importante, che ci sono tante persone da tutto il mondo che vengono e che nella stragrande maggioranza dei casi lavorano, producono, si fanno e così per diventare italiani, italiani, che è una cosa bellissima essere italiani, cioè, riflettiamo anche su questa roba qui, essere italiani è una cosa bellissima. Se poi... ovviamente se ci sono i requisiti, ovviamente se ci sono tutte le cose che la legge ti chiede per poter essere italiano, ma poi una volta che ci sono queste cose è il più bel, no? È identità, è orgoglio, è partecipazione, essere parte di una collettività e anche pagare tasse, certo, ci mancherebbe. E che poi il paradosso è che stiamo parlando di un giocatore che alla fine è andato all'Atletico Madrid. Scusa, questa cosa però va detta perché ieri Ricci l'ha chiarita, stiamo parlando di una cosa che nel calcio di oggi per come funziona il calcio di oggi è minima, perché sappiamo che Suarez fino al 2018, se si fosse mosso prima, avrebbe avuto quei requisiti. Sappiamo che in Spagna per esempio il regolamento è diverso, quindi lui è comunitario, quindi non stiamo discutendo di questo. A me personalmente non vedere Suarez, a me mi avrebbe fatto piacere commentarlo nella Juve o in qualsiasi altra squadra. Ogni volta che viene un grande campione dall'estero è una bella cosa, no? Per il nostro campionato, non credo ci sia da discutere su questo. Però insomma la vicenda è veramente comunque lo commenterai, Franco, lo commenterai comunque con la maglia dell'Atletico Madrid, magari contro la Juventus, ma certo. in Champions da comunitario, mentre giocherà da comunitario. Se fosse venuto Suarez, così come quando vengono i grandi giocatori, e Suarez è stato un grande giocatore, forse lo è ancora, è una bella notizia. Quindi per il mondo del calcio italiano è chiaro che Suarez o chiunque altro di quella categoria è un valore aggiunto, no? In termini di appeal, di immagine, questo è indiscutibile. Però poi se c'è una regola e bisogna fare un esame e questo esame deve essere fatto in maniera regolare, va fatto in maniera il professore dice con Suarez vinciamo la Champions, dice il professore nell'intercettazione, mi pare, se non ho letto male. Sì, confermo. Allora c'è Paolo da Roma che vuole intervenire sull'argomento, però poi io voglio andare oltre e voglio andare anche ai derby di mercato di Milano che non vedevamo dall'epoca di Giulio Cesare, forse. Paolo, buongiorno. Buongiorno e grazie dell'ospitalità. Senti, io sono presidente di una società di calcio del settore giovanile. Molti giorni prima, parlando con il mio team, per il caso Suarez, dicevo che tutte le persone con un minimo di buonsenso e competenza capivano che sarebbe stato un teatrino, una farsa, che non l'avrebbero mai bocciato, mai. Ora tutti i media cavalcano questa cosa a sorpresa, questo caso vergognoso fin dalla partenza. Non riesco a capacitarmi come fate a cavalcare questa cosa. Era scritto che finiva così. Insomma, tra l'essere scritto e le congetture che possiamo fare su tutti gli argomenti della vita e il vedere un'inchiesta che peraltro vale la pena ricordarlo, era in corso da marzo, da febbraio ed è esplosa. Però Carlo, il signore dice una cosa assolutamente condivisibile, e personalmente io settimana scorsa ci sono i tweet, mi sono posto la questione, cioè ho detto scusatemi, ma noi continuiamo a dire il giocatore arriva in Italia a fare l'esame o non arriva, arriva o non arriva, cioè nessuno si pone la questione, è in grado di superare l'esame, e già questa cosa doveva farci capire. Scusa Fabrizio, però anche in questo, anche tu ti fai trascinare dall'onda dell'ipocrisia. Allora, io vorrei vedere e vorrei capire e vorrei testare tutti quelli che hanno ricevuto la cittadinanza italiana, se parlano perfettamente, scrivono perfettamente italiano. No, Franco, scusami, guarda che chi ha fatto quell'esame, chi ha fatto quell'esame seriamente ti dice che ci vogliono mesi per imparare certe cose, non è che ci metti 3 minuti. Il punto vero è un altro, ed è la superficialità dimostrata dal management sportivo della Juve nella vicenda, perché una settimana, 10 giorni prima che Suarez arrivasse a Perugia per l'esame, uno studio di Milano esperto in materia, lo studio Bonelli Erede, un avvocato che si occupa di questa di queste pratiche, ci aveva detto che anche se avesse fatto l'esame e lo avesse superato, non sarebbe stato matematico il raggiungimento della cittadinanza. Ma magari pensavano di riuscirci lo stesso. No, però, tanto vero che poi l'hanno mollato prima che arrivasse a Perugia. Per la ricostruzione dei fatti, la Juventus ha abbandonato la pista una decina di giorni prima dell'arrivo di Suarez a Perugia. Ragazzi, poi abbiamo anche Giuseppe da Taranto che vuole intervenire sull'argomento, però vorrei andare su un altro tema, fermo restando questo. Comunque, che rimane di grande attualità. Dimmi, sì. Rispondere all'ascoltatore, che ha ragione, nel senso che, per carità, che non siamo tutti uguali, purtroppo, per fortuna l'abbiamo capito, che siamo sicuramente, se vediamo il nostro cantante preferito, siamo, o il nostro attore preferito, abbiamo un atteggiamento diverso da se vediamo uno sconosciuto in tante cose della vita, è vero, ma ripeto, un conto è se tu hai una tua attività privata, decidi che vuoi fare un regalo a uno, decidi che è un conto se tu hai una responsabilità comunque legata al controllo di una cosa, e quindi qui siamo nell'ambito, qualora venisse confermato, perché sono garantista, quindi ci mancherebbe altro, però qualora venissero accertate delle responsabilità, e le responsabilità ci sono, perché comunque quello lì, in quel momento lì, sei un pubblico ufficiale che devi renderti conto se una persona ha dei determinati presupposti. Poi fa ridere, certo, fa ridere nel mondo deregulated che c'è oggi, che la presenza di un giocatore in un campionato, oltretutto sposato con una cittadina spagnola, sia legata a un esame di italiano. Però se la regola è quella, la regola è quella. Sì. Possiamo discutere la regola, e magari può essere anche l'occasione per discutere certe regole in materia, però non, se c'è stata un'infrazione alla regola vigente. Sappiamo. È un po' come il discorso di Diawara, no? Io il discorso che ho fatto ieri, per me la regola così, cioè la sanzione così è sproporzionata e consegna addirittura un potere, volendo pensar male, a qualsiasi segretario, no? Poter portare a 1-0-3. Quindi voglio dire, secondo me è completamente sbagliata la regola, però se c'è quel regolamento lì discutiamo la regola, possiamo stupire viene applicato, possiamo discutere la regola, appunto, ma non il fatto. Ragazzi, derby invece di mercato di Milano non ne vedevamo da tempo, c'è stato un tentativo di derby su Tonali, poi l'Inter ha mollato il colpo, adesso ce ne potrebbero essere degli altri, Fabrizio? Sì, si parla tanto di Milenkovic. No? Giocatore della Fiorentina che piace tantissimo al Milan, sembra che possa piacere anche all'Inter, solo e soltanto nel caso in cui partisse Skriniar, a cifre però sproporzionate, cioè l'Inter 60. Non regala Skriniar, quindi se il Tottenham arriva con 50 e più milioni, allora l'Inter ragiona su questa cosa. Viceversa, si tiene molto volentieri Skriniar, che è vero, quest'anno a fine stagione ha fatto un po' di fatica, anzi non ha praticamente giocato, ma comunque sia è un valore. Ragazzi, il mercato dei difensori è difficilissimo, chi ha un difensore forte è meglio se lo tiene. Sì, anche il Milan ne avrebbe bisogno, infatti guarda a Milenkovic con particolare interesse, e magari a Chiesa, Ciccio. No, Chiesa te lo devi cancellare. Lo devi cancellare perché A, il Milan non ha bisogno, B, e la Fiorentina chiede 40 per Milenkovic, figuriamoci cosa vuole per per Chiesa, e non avete, nessuno di tutti questi ha capito che nel frattempo è successa una cosa minima, quasi minuscola, di nessuna portata economico-finanziaria come il Covid, che ha distrutto il botteghino e che ha distrutto le casse delle società. Se non lo capiscono questo, e vabbè, sarà peggio per loro. Sai quando lo capiranno? Ma te lo dico subito. Lo capiranno il 3 e il 4 di ottobre, cioè a 24 ore dalla fine delle liste di trasferimento del calciomercato. Perché così, con quelle cifre, non si muove niente. Poi vi faccio un piccolo esempio. Secondo me si rovescerà la vicenda di Tonali a proposito di Milenkovic. Io non conosco i numeri del Tottenham, ma escludo che possa cacciare 50 milioni per Skriniar. Anch'io. E se così fosse, è evidente che l'Inter ha la possibilità di andare a prendere Milenkovic. Però faccio questa domanda: se nessuno, come nessuno mi risulta, ha bussato a casa di Comiso per chiedere la valutazione, la cifra di Chiesa, e se nessuno si avvicina a Milenkovic conoscendo le richieste di Comiso, cioè 40 milioni, voi mi dite come fa a fare mercato la Fiorentina? Sono d'accordissimo, Franco, infatti noi la facciamo molto semplice, ma qui il tempo scarseggia. No, la facciamo sbagliando, perché noi instilliamo dosi contro natura di illusioni e di cifre che non esistono negli occhi e nelle orecchie delle persone, ma non è così, la realtà non è questa. In Serie B, vi faccio questo esempio clamoroso, le tre neo retrocesse, e cioè Lecce, Brescia e Spal, non hanno la possibilità di muovere un solo giocatore, se non Balotelli a fine contratto e Petagna perché è stato fatto a gennaio, e quindi sono costrette contro voglia, perché vorrebbero cambiare e prendere i giocatori magari più giovani che guadagnano di meno, sono costrette a schierare le stesse squadre dell'anno scorso che andavano in Serie A. Sì, quindi di cosa parliamo a fare di mercato, Pierluigi? Se come dice Franco, nessuno muoverà nessuno, niente si sposterà di una verga. L'esempio è un classico esempio di mercato anelastico, no? Nel senso, c'è stato uno shock enorme nel mondo del calcio, e non solo, in tante parti dell'economia, che avrebbe dovuto provocare un'immediata diminuzione degli ingaggi, delle cifre, dei trasferimenti. Allora, sui trasferimenti sicuramente sì, perché questo è un mercato ovviamente di grande fantasia, ma gli ingaggi, insomma, è molto difficile avere dei calciatori, per esempio a 10 che devono guadagnare il 15-20% in meno perché c'è stato il Covid, e quindi è un mercato che tenderà a riallinearsi, tenderà a riallinearsi col tempo, ma in maniera appunto non elastica, cioè non con la reattività immediata le borse reagiscono in maniera immediata a qualsiasi shock, qualche volta anche a dei rumors che sono soltanto tali, e invece poi altri mercati, fra cui quello ovviamente degli stipendi, con dei contratti che sono già magari stati firmati, dei contratti annuali, reagiscono con molta più lentezza. E nel frattempo ci sono le formule magiche, no? Tipo prestito con diritto di riscatto, e ci rivediamo fra 2 anni, queste cose qui che ti permettono di ripensarci più avanti. Beh, ma allora, Fabrizio, i problemi devi affrontare. Fabrizio, allora se è come dice Franco, perché continuiamo a parlare dell'Inter che pensa a Kanté, giocatore costosissimo da ogni punto di vista? Perché guarda, infatti io non ci credo, l'unica possibilità è che tu prendi Brozovic, Skriniar, qualcuno caccia dei soldi, però bisogna capire chi parte a cacciare questi soldi, e allora tu prendi quelli e li riversi su Kanté. Ma a me sembra un affare, non dico impossibile, ma quasi, nel senso che mancano pochi giorni. Il Chelsea ha detto per caso che vuole liberarsi di Kanté? No, assolutamente. Lampard lo fa giocare anche in amichevole dall'inizio alla fine, se non ne parla neanche. Devi monetizzare il punto di vista dell'Inter, soprattutto il punto di vista di un club che deve alleggerire la propria rosa, perché il monte salario scusatemi se mi permetto, secondo me è una rosa già completa la rosa dell'Inter, funziona. Cioè, ci sono tutti. Scusate, ma Zhang nell'intervista a Corriere della Sera lo disse apertamente: si possono fare soltanto acquisti solo e soltanto se ci sono delle cessioni. Ma più chiaro di così, il Milan in questo momento è fermo per un motivo semplicissimo: perché deve aspettare il 1° ottobre, quando eventualmente, se passa stasera, giocherà il terzo e ultimo turno di preliminare di Europa League a la conferma o meno di partecipare al girone di qualificazione. Oltre al Corriere della Sera l'ha detto anche a Conte, vero? Conte ha letto il Corriere della Sera, perché il Conte è leggero senza averlo davanti. Guardate che Conte sta sorridendo, non l'avete visto? Sorride, Conte ma sta bene adesso, ride? È contento. Ma smettila, ma fino a quando? Scusate, è vero che ha sorriso in presenza di chi? Di Vidal. Certo. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi, ciao a voi. Fabrizio saluta il gatto. Vi saluto Frida. Ciao. Bravo. Tienimi da conto lì. Allora, Giuseppe da Taranto, un attimo di pazienza dopo la borsa, quando convocheremo anche Antonio Giordano per fare due chiacchiere sul Napoli, su Gattuso, su Osimhen, su Arabi De Laurentiis, sulla posizione di Milik, tutte queste cose. Ma come mai nel moto mondiale praticamente tutti i piloti spagnoli parlano benissimo italiano? E come diavolo fa Suarez, che è una vita che sta in Spagna, a non parlare una parola di italiano? Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Tutti convocati. Poveri, ce l'hanno tutti con loro, ce l'hanno tutti contro la Juve. Tutti a incriminare o a parlare di questo e di quello. Lui doveva fare un esame e non ha studiato, non spiccicava una parola. Così hanno detto. Opinioni degli ascoltatori 349-238-6666. Saluto subito Antonio Giordano, Corriere dello Sport. Ciao Antonio. Eccomi qua. Eccolo là, grazie. Come va vecchio mio? Ci difendiamo. Ci hanno messo la mascherina tutto il giorno, Stato comune. L'hanno messo? La mascherina tutto il giorno anche all'aperto. È vero, in campagna. Beh, c'è De Luca, giustamente. Non solo De Luca, è tante zone d'Italia. Devo dire che c'ha ragione, visto che sono aumentati, sono diminuiti i tamponi e sono aumentati i contagi. Grande precauzione diffusa e necessaria. Giuseppe Taranto, buongiorno, grazie per buongiorno e buon pomeriggio a voi ragazzi. Se mi permettete di esprimere la mia opinione, vorrei dire questo. Il garantismo di Pardo mi sembra un po' esagerato quando arriva ad ipotizzare un atteggiamento di eccessiva riverenza nei confronti di un personaggio importante, dicendo che è un personaggio importante il signor Suarez. No, completo e poi vi lascio la parola. Mi sembra che bisognerebbe invece dare il giusto rilievo all'assoluta mancanza di etica professionale ed umana da parte del rettore dell'università e del direttore generale, perché che il loro operato sia riconducibile ad un atto di corruzione, o peggio ancora, io preferirei sapere che hanno incassato qualcosa, perché se l'hanno fatto veramente presi da un complesso di emozione o di riverenza verso un calciatore perché guadagna 10 milioni all'anno, vuol dire, signori miei, che questa nostra nazione in alcune sue istituzioni sta in mano proprio a persone indegne di rappresentarle. Vi ringrazio per avermi ascoltato. No, io sono d'accordo con lei. Io l'unica cosa non è che ipotizzo, cioè io dico che finché c'è un'inchiesta, non è che lo ipotizzo io, ho letto i giornali e ne parlavamo un attimo fa con Franco Ordine. Bisogna capire che cosa è stato, bisogna capire se è stata corruzione o sudditanza. Quindi prima di dire che è stata sicuramente corruzione o sicuramente sudditanza, facciamo parlare i magistrati. Certo. Sulla gravità della vicenda e sull'aspetto culturale, tra virgolette, politico della vicenda, mi sembra essermi espresso e siamo perfettamente d'accordo. Sì, non si regalano gli esami, non si regalano le cittadinanze a nessuno, nemmeno se guadagna 10 milioni al mese. Non si regalano e non si comprano, vale semplicemente questo. Allora, io direi, io volevo, ho chiamato Antonio Giordano perché ieri abbiamo immaginato la faccia di De Laurentiis in questi giorni. Non l'hai visto perché non è possibile vedere, ha problemi di quarantena. Ma in quarantena. Che faccia immagini abbia? A proposito di cosa? Della vicenda di Perugia? No, della vicenda di Milik. No, perché facevamo una battuta sì, semplicemente visto che si parlava di Perugia, città tra l'altro anche su Perugia, insomma, anche su Perugia. La vicenda dal punto di vista etico, insomma, incommentabile, non ci entrerò io assolutamente, lasciando che sia un napoletano eccellente come Cantone, che rappresenta, come dire, una garanzia per il paese, che si pronunci lui. Resta una ferita grossa, assolutamente grossa, per uno dei pilastri della cultura italiana, qual è il mondo universitario, e quella di un'università importante come una città bella come Perugia. Detto ciò, a proposito di Milik, che è un'altra vicenda che dal punto di vista etico, ma stavolta tra virgolette, necessiterebbe approfondimenti, e insomma credo che un po' di sbigottimento da parte di De Laurentiis sia il minimo. La butto sul conto della mastaia di Voghera, mi pare che fosse. Sì, lei, proprio lei, famosissima. La poveraccia, la signora Milik, diciamo, più o meno rinuncia a 25 milioni di euro nel prossimo quinquennio, attraverso quello che è stato, come dire, l'atteggiamento di Milik, e di una vicenda che complessivamente però credo sia stata gestita male un po' da tutti, per questioni che riguardano il passato, che riguardano la contrattualistica, nella quale veramente non c'è tanta lungimiranza, ma soprattutto stavolta da parte del calciatore. Alla Roma non si può dire, non dico di me, ma non si può neanche prendere tempo, perché siamo dinanzi, come dire, a un'istituzione del calcio italiano e anche mondiale, ma sai, oltre che forse alla città più bella del mondo. No, probabilmente, conoscendo tutto il giro, come tutti lo conosciamo, la tentazione di tirare la corda fino all'estremo poi la spezzi. Infatti si è spezzata ed è un gran casino. Sì, ma lì c'era chiaramente un pregresso, no, di rapporti tesi, di, certo, perché altrimenti una soluzione, certo, di buon senso la trovi. Cioè è veramente in questo momento una soluzione pessima per tutti, per tutti, prima di tutto per il calciatore, sì, sì, perché il calciatore rischia veramente di fare un anno. Poi è stato un calciatore anche sfortunato dal punto di vista fisico, che già ha perso tanto tempo della sua carriera, e perdere ancora un anno, sei mesi così, insomma, veramente, no, secondo me imperdonabile. Ci rimettono tutti, il Napoli ci lascia 25 milioni, la Roma, esatto, ci lascia l'operazione Milik e Dzeko ci ha rimesso la Juventus, e Milik non lo so che farà, insomma, in un mercato in cui il Napoli, devo dire, qui la storia del calcio, poi del Napoli intendo, è ricca di ricordi piacevoli. Il pilastro del mercato del Napoli è quello del 2013-14, quando ci fu la cosiddetta rivoluzione di Benitez e Bigón. Poi da quel momento in poi, nonostante una serie di investimenti sempre notevoli, nulla più o meno è stato come prima. E ora la figura Osimhen più o meno sta cercando, come dire, di rimettere a posto. Sì, Napoli al sorriso da ragazzino di Osimhen, che ha giocato benissimo, è piaciuto molto a Pardo il Napoli nel secondo tempo della partita. Credo che nel primo quarto d'ora della ripresa anche Pardo si sia annoiato. No, vabbè, ok, ho detto secondo tempo per Pardo. Lo chiameremo da oggi. Ha quel sorriso lì, no, in questo momento il Napoli, però non è ben chiaro quale sarà la faccia definitiva del Napoli, perché insomma ci sono appunto talmente tanti tante cose di mercato, a partire da Koulibaly in giù, da chiarire, che insomma mi sembra difficile capire quale sarà il Napoli, Antonio. No, fino all'ultimo momento, Pier, se sbaglio correggimi, può succedere che arrivi un folle, uno sceicco, un principe con 70 milioni di euro, 75, non so, e possa portare via Koulibaly. E tu hai il coraggio, sacrosanto, se sei un presidente di una società nella quale c'è Koulibaly, di dire sì, perché in questo momento, in questo periodo, io immagino che la gente si sia resa conto di quello che ci sta succedendo. Sì, ma certo, ne parlavamo prima. e quindi non può pensare di dire di no a 75 milioni eventualmente il 4 ottobre. Facciamo un giochino, arrivano quelli del PSG o del City, finalmente decisi a prenderselo in 24 ore, perché sai, dici no, mi dispiace, ma non ho il difensore quando hai Maximovic e Rachmani. Guarda, conoscendo De Laurentiis, se arrivano anche con tanti soldi 24 ore non compri niente, perché cominciano dei balletti che tu conosci molto bene, ma anche un po' anche noi. Grazie ragazzi, vi saluto. Sì, perché devo andare in Spagna, devo andare in Spagna perché ho un ospite. Devi andare a fare un esame di spagnolo? No, vado metaforicamente in Spagna e continuerò a parlare italiano con un pilota italiano del moto mondiale. Grazie ragazzi, traffico, torniamo. Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati. Di Macumba non devono sbagliare perché c'è il verde. Celestino, Celestino Vietti vince la prima gara della sua carriera. L'ultima vittoria dello Sky Racing Team nel 2017 con Mimmi al Mugello. Celestino Vietti vince per la prima volta. Toga a Bolina il secondo. Il mondiale più incerto del secolo, un vincitore quantomeno morale per il momento, questo moto mondiale tutto intero ce l'ha già il Team VR46. Ciao Paolo Ianieri, inviato alla Gazzetta dello Sport. Ciao. Sono anche in Spagna, Non so che sei tu in Spagna, lo so bene. No, finalmente hai ricominciato. Come si trattano, cioè, siamo isolatissimi fuori dal paddock, non ci fanno entrare. Ha paura che contagiamo con le domande. Allora, sai cosa faccio? Ti faccio parlare con Celestino Vietti, che abbiamo sentito nell'audio di cui sopra, vincere in Austria quest'anno, è quarto nel mondiale. Ciao Cele. Ciao a tutti. Ciao Paolo, lascio a te la prima domanda, già che siete a distanza di credo 100 metri in linea d'aria, ma non puoi parlargli, quindi te lo lascio per la domanda. Posso immaginare, posso intravedere un pochettino il suo camion. No, la domanda che voglio farti, dopo anche il grandissimo Gran Premio che hai corso a Misano, quanto ti ha dato di fiducia, di consapevolezza di quello che puoi fare l'avere vinto la prima gara? Perché da là sei proprio cambiato, hai fatto uno step diciamo anche mentale, immagino, o no? Sì, allora, innanzitutto comunque vincere una gara ti dà sicuramente una gran sicurezza, una gran carica nel cercare di fare sempre meglio, e sicuramente mi ha dato un po' di consapevolezza, lo aspettavo da tanto e finalmente è arrivato, quindi dai, da lì dici ok, posso provare anch'io a vincere, e allora sì, mi ha cambiato comunque un pochino il modo di vedermi anche in pista, però cerco sempre di rimanere concentrato perché ci sono molti piloti che vanno forte e si possono giocare la gara domenica, quindi bisogna cercare di stare più concentrati possibile e non lasciare nulla al caso, perché è veramente difficile, specialmente nella Moto3, riuscire a confermarsi, diciamo. Però c'è le meno 30. Quindi molto bene, cioè, posso dirlo, è uno che sta guidando davvero bene. Anche Misano era difficile come gara. E lui non ha mai sbagliato, perché comunque sempre lì davanti, sempre provare a scappare, e non è facile in Moto3. Beh, ma come hai detto tu, la vittoria da quel click, te la butto lì a bruciapelo, meno 33 da Arena, spensi al mondiale? Sicuramente penso che sia il momento in cui sono stato più vicino sono più vicino in questo campionato, quindi sarà importante non farsi prendere troppo dalla foga, quindi non ossessionarsi, però bisogna anche comunque pensarci un po' e cercare di fare il meglio possibile per provare ad arrivare il più avanti possibile in campionato, però come dico sempre cerco di non ossessionarmi troppo e di non farmi troppa pressione. Paolo, non sbaglio se dico che nel team VR46 quest'anno ogni giorno è più o meno un weekend di festa, perché guardi Vietti, guardi cosa sta facendo Marini, guardi chi è stato Bezzecchi, Marini, guardi a chi è stato in quel team, ad esempio Bagnaia, insomma è un'accademia che dà sta pagando dividendi altissimi, sta cominciando. No, diciamo che finora poi sai era la Moto2 quella che aveva fatto sorridere di più, mentre in Moto3 c'era stata sì qualche vittoria, ma non c'era mai stato forse anche quella costanza che adesso un pochettino alla volta si comincia anche finalmente a vedere. Invece Cere, come vedi da lì, dalla pista, al Mondiale dei Grandi? MotoGP o Moto2? MotoGP. Penso sia il campionato più combattuto degli ultimi almeno 5-6 anni. Sta veramente dando dei colpi di scena incredibili ogni weekend, c'è un vincitore, c'è un possibile vincitore diverso ogni gara, e quindi sicuramente molto bello. E io ovviamente dico per i nostri e spero che Vale, Morbide e Pecco possano fare veramente bene, sono tutti e tre comunque molto molto veloci e hanno dimostrato soprattutto ultimamente Pecco e Morbido che hanno fatto un grande step di poter lottare per la vittoria. Vale sempre lì, quindi mi dispiace molto per l'errore che ha fatto Misano, perché andava molto forte, però sicuramente lui sa meglio di me come gestire queste situazioni, quindi io ho sempre fiducia e spero di vedere un bel campionato. Paolo, cosa ti aspetti da quella da Barcellona? Allora, io devo dirti, al netto che non ci si capisce ancora molto chi possa essere favorito, zero. Io un favorito un pochettino più degli altri ce l'ho in questo momento, cioè? Che è Mir. Ah. Perché se stiamo guardando nelle ultime gare è andato sempre molto forte. Ha fatto 3 podi che potevano essere 4 senza quella schifetta della regola del verde in Austria. E è uno che guida molto molto bene, la Suzuki è una gran moto, cioè paradossalmente è forse la moto migliore, che però è anche l'unica delle big che non ha ancora vinto una gara, poi lasciamo perdere la Honda che non c'è mai. Però lui mi sta piacendo molto e soprattutto ha messo molto in crisi Rini. Sì, sarebbe una sconfitta mondiale epocale per la Ducati comunque, non dove sarebbe. Dovi quest'anno deve, cioè io mi aspetto un riscatto da lui questa gara, perché non può continuare a correre come ha corso anche nelle due Misano, che bene o male erano piste dove avrebbe dovuto far bene. Poi c'era il grip che la Ducati cercava, e Dovi deve iniziare a usare un po' di più nei momenti critici, deve tirare fuori qualcosa, perché altrimenti perché altrimenti rischia di essere un mondiale figuraccia. Grazie ragazzi, in bocca al lupo Celestino Vietti ovviamente per la gara, grazie a Paolo Alinieri che presto ritroveremo su questi schermi, grazie anche a Gianmarco Ferronato in regia, Lorenzo Nesponi in redazione, ci sentiamo domani. Ragazzi, ce l'abbiamo fatta, ci vediamo domani, enjoy. Saluti! Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it.